Ora mi accorgo quanto vorrei tanto uscire. Solo sentire i rumori esterni mi fa un po' rabbrividire. Sto per impazzire, ma quando la clausura è forzata, la voglia di libertà aumenta in maniera sproporzionata. Non credevo fosse così dura. Vorrei poter salire su un'auto ed allacciare la cintura, percorrere chilometri e chilometri di distanza, allontanarmi da quella cella che è adesso la mia stanza, senza dover per forza limitarmi ad un balcone ad osservar ripetersi sempre la stessa situazione. Potrà sembrare banale, mi cominciano a mancare le serate estive trascorse su questo lungomare, o anche il solo viaggiare in autostrada verso Bolo, Torino, andare a trovare chi non vive qui vicino, tirare giù il finestrino appena giunto in città e respirare l'aria di una diversa realtà. Voglio la libertà, voglio la libertà, è l'unica cosa che nella mia testa ora sta. Voglio la libertà, voglio la libertà, è l'unica cosa che nel mio cuore adesso sta. Voglio la libertà, voglio la libertà, che chiusa il gabbio sono sicuro che capirà. Voglio la libertà, voglio la libertà, amo la libertà, già la libertà. E mi ritengo fortunato, la pena la sconto a casa. Capisco tutta quella gente che dal gabbio evasa, a chi ancora invece dentro dedicherò un pensiero. Quando a farmi da tetto ci sarà di nuovo il cielo, non so ancora quando arriverà quel giorno, so che giungerà il momento in cui potrò di nuovo assaporare la mia libertà. E quando arriverà quel giorno, porrò tutto intorno, pronte a stappare bottiglie per il mio fottuto ritorno. Non importa se sulla spiaggia o sotto la pioggia, penso sempre ad ognuno che moralmente mi appoggia, a chi mi viene ugualmente a trovare pronto a scappare ogni volta che lo sbirro sta per citofonare. Amici tengo duro, è come se fossi lì fuori a lottare con voi per i nostri valori. Qualcuno forse queste parole le capirà, perché sa bene quanto è importante la libertà. Voglio la libertà, voglio la libertà, è l'unica cosa che nella mia testa ora sta. Voglio la libertà, voglio la libertà, è l'unica cosa che nel mio cuore adesso sta. Voglio la libertà, voglio la libertà, che chiusa il gabbio sono sicuro che capirà. Voglio la libertà, voglio la libertà, amo la libertà, già la libertà. La libertà di poter nuotare nel mare, che adesso posso solo dalla finestra osservare, sedermi ad un tavolo ed un drink ordinare, circondato dai miei homies che mi stanno ad ascoltare, e starli ad ascoltare quando hanno da parlare, discutere delle cose che si dovranno affrontare. Mi mancano emozioni, suoni, odori, voci, profumi e colori, forme e sensazioni, musiche e rumori, che percepisci solamente quando sei all'esterno. Ma questa mia condanna sembra durare in eterno, le mie rime sono testimoni di questa storia. Pago per i miei errori, ammazzo tempo e paranoia, attendo con trepida attesa il giorno in cui sarò libero. In queste circostanze sembra quasi un sogno effimero, ma ancora per poco, perché io so che arriverà il giorno in cui riscoprirò cos'è la libertà. Voglio la libertà, voglio la libertà, è l'unica cosa che nella mia testa ora sta. Voglio la libertà, voglio la libertà, è l'unica cosa che nel mio cuore adesso sta. Voglio la libertà, voglio la libertà, che chiusa il gabbio sono sicuro che capirà. Voglio la libertà, voglio la libertà, amo la libertà, già la libertà. Voglio la libertà, voglio la libertà, è l'unica cosa che nella mia testa ora sta. Voglio la libertà, voglio la libertà, è l'unica cosa che nel mio cuore adesso sta. Voglio la libertà, voglio la libertà, che chiusa il gabbio sono sicuro che capirà. Voglio la libertà, voglio la libertà, amo la libertà, già la libertà.